Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. E allora le liberalizzazioni, abbiamo raccolto con i colleghi della radio numerose dichiarazioni delle categorie interessate, farmacisti, notai, ma non solo, e poi anche la borsa. Allora, abbiamo ricevuto numerosi messaggi immagino azionisti di Unicredit che vogliono capire quale sia il ragionamento da fare sui diritti e anche sul valore del titolo in borsa, perché non si avvicina al valore dell'aumento di capitale come avviene invece in altri casi. Lo spiegheremo più avanti, è molto tecnico, però è giusto anche raccontarlo. Già ieri lo spiegava, a mio avviso, in maniera molto precisa Antonella Olivieri. Nel valutare il prezzo di Unicredit in borsa non bisogna usare come riferimento il valore dell'aumento di capitale a 1,90 euro, perché vanno sommati anche i diritti. Comunque il titolo Unicredit oggi guadagna il 5%, è a 2,40 euro. Chi ha venduto a mani basse la settimana scorsa, probabilmente alcuni operatori chiaramente professionali, sta guadagnando parecchio, perché da quello che ci risulta molti hanno venduto per poi ricomprare anche in una giornata come oggi. Ebbene, anche Intesa San Paolo, oggi sono tutte ben impostate le banche e conseguentemente anche l'indice FTSE MIB guadagna il 2,70%, dicevo Intesa San Paolo più 5,81, Popolare di Milano più 6,5, Popolare Emilia Romagna più 8,50%. Questi tra l'altro sono i primi quattro titoli per crescita tra quelli a maggiore capitalizzazione. Segue poi TOZ più 4,80 e Steam Microelectronics più 4,60 come Salvatore Ferragamo, Prismian più 4,30, Fiat più 4 come Azimut, Mediobanca più 3,80 come Exor e Fiat Industrial. Chi perde? Monte dei Paschi, anche oggi il 2,5%, è sceso a 19 centesimi di euro per azione, di Assorin meno 0,60 e Campari meno 0,60 anch'essa. L'euro è stabile su quota 1,27 sul dollaro, 1,2780. Adesso devo dire che sono ben impostate le banche anche nel resto d'Europa e conseguentemente anche gli indici. Parigi più 2,33, Francoforte più 2,20, Londra più 1,70, l'America più 0,70%. L'altra cosa di cui ci occuperemo ovviamente è l'accordo fatto sul San Raffaele. IOR e Malacalza non hanno presentato un'offerta dai notai Chiodi e da Elli entro il termine della gara per il San Raffaele, rinunciando così di fatto a rilanciare i 405 milioni di euro, ossia la cifra messa sul piatto da Giuseppe Rotelli, che è imprenditore delle cliniche della sanità in Lombardia soprattutto, nonché azionista del gruppo Rizzoli Corriere della Sera, e quindi il gruppo fondato da Luigi Verzè va a Rotelli. Ne parleremo dopo le 18, perché tra l'altro alle 17.30 è prevista una conferenza stampa proprio per illustrare i dettagli dell'operazione. Parleremo ampiamente anche dell'intera vicenda che ha portato alla cessione del San Raffaele, lo ricorderete, travolto dai debiti, a rischio bancarotta. Ancora, per quello che riguarda invece le notizie di questa giornata, al di là di liberalizzazioni, della vicenda di borsa, della vicenda San Raffaele, c'è anche il rapporto presentato da SOS Impresa, che è l'associazione che aderisce a Confesercenti, le mani della criminalità sulle imprese. Fa molto discutere in rete l'intervista a un funzionario della DIA Lombarda che denuncia sostanzialmente l'impotenza della DIA per mancanza di mezzi nel combattere la criminalità in Lombardia. Questo è un rapporto che riguarda invece le mani delle mafie e della criminalità sulle imprese in generale. Insomma, la mafia si conferma il più grande, le mafie sarebbe meglio dire, si confermano il più grande agente economico del paese, muovono un fatturato si aggira intorno ai 140 miliardi di euro, questa è la stima, chiaramente tendono a non pagare le tasse e quindi l'utile è superiore ai 100 miliardi. Tra l'altro è a questo punto anche la prima Banca d'Italia, il primo istituto bancario italiano, la mafia, perché disporrebbe, stando al rapporto, di 65 miliardi di euro di liquidità. Molti ci chiedono anche di capire cosa potrebbe succedere sulle banche italiane. È vero che la capitalizzazione delle principali banche italiane arriva ad essere sostanzialmente vicina a quella di un normale grande gruppo bancario francese, come è per esempio BNP Paribas. Certo, il rischio c'è: quando il tuo valore di borsa cala così tanto, il rischio che qualcuno ti scali c'è, e c'è forte. Poi sappiamo che in queste vicende c'è sempre anche un interesse nazionale, per quanto insomma in Europa il mercato sia libero, e non è un'operazione, insomma, scalare una banca non è un'operazione, se qualcuno si ricorda la vicenda Anton Veneta, così neutra come scalare un'altra società quotata in borsa. Ancora 349-238-6666 per i vostri sms. Dicevo, il rapporto di Confesercenti è pesante anche sul fronte delle imprese chiuse tramite usura. Praticamente 190.000 imprese chiuse in tre anni, dal 2008 al 2011. Ne parleremo più avanti, partiamo subito con le notizie in breve. Oro a 1.616 dollari l'oncia, petrolio a 103 dollari il barile, la benzina in Italia invece è senza freno, sfonda anche quota 1,750 euro al litro, con punte di 1,815 euro, e domani si prospettano nuovi rincari. Sul diesel siamo a 1,709 euro. E poi è tornato, lo ricorderete, il nostro ospite molte volte, il presidente dell'Unione Petrolifera Pasquale De Vita, ha detto che i prezzi della benzina potranno scendere se riusciremo a portare avanti immediatamente il programma di estendere i self-service a tutti gli impianti sul territorio nazionale. Sì, sicuramente i self-service, diciamo che anche le accise praticate e caricate dalle varie manovre finanziarie e i margini di guadagno dei petrolieri, incidono non poco, e va bene, anche i self-service, insomma, dire che tutta la colpa è dei self-service dell'utilizzo delle pompe di benzina ancora con il benzinaio mi sembra un po' troppo. De Vita. La Germania, già ieri ricordavamo come la Germania ormai riesca a indebitarsi, ossia quella l'asta di ieri dei bot. Praticamente è un rendimento meno 0,01%, vuol dire che la Germania riesce a indebitarsi, costa meno in Germania cercare finanziatori per il debito che non utilizzare i soldi propri, detta in una battuta. Beh, la Germania si sta avvantaggiando di questa situazione di attacco ai debiti dell'area euro, soprattutto appunto spagnoli e italiani. E tra l'altro, nonostante il rallentamento registrato negli ultimi mesi, per l'industria tedesca il 2011 è stato il secondo miglior anno dalla riunificazione, quindi dal 1990. Tra gennaio e novembre l'industria tedesca è cresciuta complessivamente di quasi l'8%, 7,9%, merito sicuramente dei tedeschi, e che ricordo però esportano quasi metà, a seconda degli anni, quasi metà dell'export tedesco finisce nell'area euro, e quindi hanno un beneficio nello stare nell'euro. Però Deutsche Bank prevede per il 2012 una recessione anche in Germania. L'ultima stima che avevamo a disposizione era una crescita dello 0,5%, quindi vicinissima, anzi stagnazione economica. E Deutsche Bank appunto fa questa previsione dovuta alla forte insicurezza per la crisi del debito e i programmi di risparmio di molti paesi dell'area euro, a dimostrazione che le difficoltà poi dell'area euro, quanto dicevo un secondo fa, vanno a ripercuotersi anche sulla Germania. Se si è tutti sulla stessa barca, è il caso anche che i tedeschi, che fanno bene a chiedere rigore, fanno bene a chiederlo agli italiani, ai greci, agli spagnoli, però se ricordassero che se qua frena tutto, frenano anche le loro esportazioni. C'è una significativa possibilità che l'agenzia di rating Fitch tagli il voto al debito italiano, l'ha detto l'analista dell'agenzia David Riley, e sostanzialmente ha detto Riley: per rimuovere il premio di rendimento dei titoli di Stato dovuto alla crisi ci vorrebbe una credibile rete di protezione, e questo lo può fare solo l'Europa, non lo può fare l'Italia da sola. Però lo stesso analista ha detto: non prevediamo che l'Italia debba ristrutturare il debito. Ristrutturare il debito vuol dire una cosa molto semplice: quando fallisci devi ristrutturare il tuo debito, quindi offri quello che ha fatto la Grecia, offri le tue obbligazioni con uno sconto, quindi ritorni i prestiti che hai chiesto con uno sconto del 30% nel caso greco, che poi è arrivato al 40-45%, mentre Fitch ritiene che all'Ungheria serva il salvataggio del Fondo Monetario Internazionale entro giugno. La vicenda di Cortina. Allora, già ieri vi ho spiegato la nostra posizione: è solo in questo paese si può polemizzare sui controlli fatti a Cortina, dove si sono scoperti appunto personaggi con macchine da decine di migliaia di euro che dichiaravano 30.000 euro l'anno, oppure scontrini dei ristoranti, dei bar, che improvvisamente quel giorno lì erano del 300% più alti rispetto al giorno precedente, o del 200% più alti rispetto a un anno prima, nel giorno dei controlli. Solo in questo paese si può polemizzare su questo, veramente. Però sta capitando qualcosa di strano, perché insomma gli hotel termali, questa mattina è arrivata un'agenzia in cui gli hotel termali di Abano Terme, località rinomata, denunciavano controlli a tappeto sugli alberghi a 5 stelle da parte della Guardia di Finanza e, anzi, scusatemi, dell'Agenzia delle Entrate, in cui gli uomini dell'Agenzia delle Entrate avrebbero setacciato questi alberghi chiedendo i nominativi di chi aveva speso più di 2.000 euro. E allora tutti quanti abbiamo detto: ecco, di nuovo un'altra operazione a Cortina. In realtà, grazie alla nostra Valentina Fulanetto, si è scoperto che non è vero, nel senso che non c'è stato nessun blitz sotto Natale ad Abano Terme, e lo ha appunto smentito il colonnello della Guardia di Finanza di Padova, Ivano Maccani. Ascoltiamolo al microfono appunto di Valentina Fulanetto. Noi non abbiamo fatto nessun blitz né ieri né l'altro ieri, né a Natale né a Capodanno ad Abano Terme. Come è uscita questa notizia, colonnello? Guardi, stando a quello che ho letto dai giornali, il Gazzettino avrebbe intervistato un rappresentante dell'associazione albergatori, il quale avrebbe detto che noi abbiamo fatto dei controlli, ma noi i controlli li facciamo abitualmente, cioè abbiamo in corso delle verifiche in varie parti della provincia di Padova, verifiche ordinarie, come dire i carabinieri: oh, oggi hanno fatto un blitz su i furti, no? Ma tutti i giorni arrestano qualcuno per furti. Noi comunque ieri ad Abano non siete entrati negli alberghi a 5 stelle chiedendo dei clienti facoltosi? Assolutamente no. E da quello che mi risulta, neppure l'Agenzia delle Entrate. Le risulta anche a lei? Questo a me non risulta che l'abbia fatto neanche l'Agenzia delle Entrate. Andiamo bene, proprio bene. No, adesso dico, ma non starà mica partendo un meccanismo di marketing sull'evasione? Cioè, se non ti arriva il controllo della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate non conti niente? Perché non abbiamo capito veramente come sia nata questa cosa degli albergatori di Abano Terme. Sembra quasi dire, insomma, se ti arriva il controllo sei qualcuno, sei chic, sei tipo Cortina o Portofino. È incredibile. Va bene. Allora, dell'usura della Confesercenti parleremo più avanti, per quello che riguarda appunto il rapporto Confesercenti sull'usura e le mafie. E poi invece vedo anche molti messaggi sul San Raffaele, anche di quello parleremo più avanti. Adesso invece, come sempre, prima di passare al primo tema, vorrei raccontare questa crisi con la nostra rubrica abituale. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. Allora, i greci sono di nuovo sull'oro del baratro, e come nelle precedenti occasioni i tedeschi, con grande stile, devo dire in questo caso La Bild, rigirano il coltello nella piaga, pronti ad affittare l'Acropoli. Il tabloid tedesco così titola: oggi dovremmo dare in affitto l'Acropoli. È un'intervista al parlamentare conservatore ed ex ministro greco Gerassimos Giacoumatos. Dovremmo dare l'affitto all'Acropoli e gli altri siti archeologici ad imprenditori privati e incassare denaro per il pareggio di bilancio. Già nel 2010, nel marzo 2010, la Bild esortava i greci: vendete un'isola oppure l'Acropoli. Devo dire che fu un insulto anche abbastanza pesante, perché a parte Totò e la vendita del Colosseo, insomma, un po' di rispetto per i paesi. Ma la crisi colpisce anche il terrorismo, perché senza il marchio di Osama Bin Laden, Al-Qaeda va in crisi per mancanza di fondi. Praticamente, secondo gli analisti americani, il nome di Osama funzionava come un marchio pubblicitario, spingeva alcune ricche famiglie del Golfo a concedere generosi finanziamenti all'organizzazione. Ebbene, fonti talebane in Pakistan sostengono che molti miliziani di Al-Qaeda sarebbero paralizzati dalla mancanza di fondi e poi, oltre che dalla paura degli attacchi degli aerei senza pilota americani. È un servizio molto ampio e dettagliato presente sull'Economist. Un ricone avare vecchio dice: ahimè, così non va, vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Oh, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. E invece la Guardia di Finanza di Palermo è effettivamente andata a fare alcuni controlli in due esercizi commerciali del centro, in una ventina di esercizi commerciali del centro storico di Palermo. Su questi quasi 20 esercizi monitorati, due sono risultati addirittura autori di raggiri nei confronti dei consumatori durante i saldi. Praticamente, cosa avevano organizzato questi due esercizi commerciali? Efficace il trucco, gonfiavano il prezzo originale praticato prima dell'avvio dei saldi, applicandoci poi la percentuale di sconto in realtà era fasulla, per cui alla fine veniva fatto credere di avere il saldo, ma in realtà il prezzo era identico a prima. Sanzioni amministrative da tra i 1200 euro e i 3800 euro per i due negozi. Ma la cosa più bella, e il motivo per cui l'abbiamo inserita nella nostra rubrica, è la giustificazione che hanno dato i due titolari palermitani per questi finti saldi. Hanno detto che c'è la crisi. Si lamenta Nicodemo della crisi, lui che va nel casino di Sanremo a giocare al baccarà. Ah, la crisi, sa, capirà la crisi, oh, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Lasci stare il gavazzare, cerchi un po' di lavorare e vedrà che la crisi passerà. Allora, questo vi leggo la risposta che ha dato il Presidente del Consiglio. Giustamente un ascoltatore mi dice: era la Fontana di Trevi, quella di Totò. Ha ragione, chiedo venia. Ma dicevo, la risposta che ha dato il Presidente del Consiglio all'interrogazione del senatore della Lega Roberto Calderoli, che ha chiesto modalità sul conto pagato dalla Presidente del Consiglio per la cena di Capodanno, Mario Monti e la famiglia, che giustamente adesso giustamente Calderoli si interroga e interroga il Parlamento sulle spese. Quando era al governo mi sembrava un po' più distratto, ma questa è una mia valutazione. Allora, Mario Monti ha precisato che non c'è stato alcun tipo di festeggiamento presso Palazzo Chigi, che la cena si è tenuta presso l'appartamento residenza del Presidente del Consiglio, che erano presenti la figlia, il figlio, la moglie, i rispettivi coniugi delle figlie e figli, una sorella, i quattro bambini, i nipoti dei coniugi Monti, di età compresa, leggo testualmente il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di età compresa tra un anno e mezzo e 6 anni. Tutti gli invitati alla cena hanno trascorso a Roma il periodo dal 27 dicembre al 2 gennaio pagando a loro spese l'hotel nazionale. Tra l'altro è preciso dal comunicato che Mario Monti, come l'interrogante riferito a Calderoli ricorderà, ha rinunciato alle remunerazioni per le posizioni di Presidente del Consiglio, di Ministro dell'Economia e delle Finanze. E poi continua il comunicato, questa è la parte più bella: gli acquisti per la cena di Capodanno del Presidente del Consiglio sono stati effettuati dalla signora Monti a proprie spese presso alcuni negozi siti in Piazza Santa Emerenziana, Tortellini e Dolce, e in via Colle di Rienzo, Cotechino e Lenticchie. La cena è stata preparata e servita in tavola dalla signora Monti. Non vi è perciò stato alcun onere diretto o indiretto per spese di personale. Il presidente Monti, attenzione, questa è bellissima, non si sente tuttavia di escludere che, in relazione al numero relativamente elevato degli invitati, 10 ospiti, possano esservi stati per l'amministrazione del Palazzo Chigi oneri lievemente superiori a quelli abituali per quanto riguarda il consumo di energia elettrica, gas e acqua corrente. Devo dire, comunque la si pensi su Monti, una grande lezione di stile a Calderoni. L'esercente poveretto non sa più che cosa far e contempla quel cassetto che riempiva di danar. Oh, la crisi, signor, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Si contenti guadagnare quel che è giusto e non grattare e vedrà che la crisi passerà. No, devo dire, è bellissima, adesso la incornicerei, perché insomma lo humor è una cosa che bisogna anche apprendere nella vita, perché scrivere come risposta all'interrogazione del senatore Calderoli, il presidente Monti non si sente tuttavia di escludere che in relazione al numero relativamente elevato degli invitati, 10 ospiti, possono esservi stati per l'amministrazione di Palazzo Chigi oneri lievemente superiori a quelli abituali per quanto riguarda il consumo di energia elettrica, gas e acqua corrente. Numero uno. E poi però Monti chiude la comunicazione al Presidente del Consiglio dicendo il Presidente Monti evita accuratamente di utilizzare mezzi dello Stato se non per ragioni strettamente legate all'esercizio delle sue funzioni e per raggiungere il proprio domicilio a Milano utilizza il treno a meno che non siano previsti la partenza e l'arrivo a Milano da un viaggio ufficiale. E così come il pesce puzza dalla testa, aggiungo io anche la sobrietà parte dalla testa dei vertici, vero? Calderoli era nel governo fino a novembre, ma se lo ricorda lo stile degli aerei di Stato? L'interrogazione ne abbiamo viste poche quando era ministro. Vabbè, vai. Andiamo avanti, parliamo ahimè della prima industria di questo paese, quantomeno quanto a liquidità e la mafia, ne parliamo verso le 17.45 a chi ci chiede di delucidazione, e invece restiamo sul tema del governo, ossia le liberalizzazioni. Entro 10 giorni il governo ha intenzione di intervenire in materia di liberalizzazioni, appunto il varo di un decreto legge. E ieri nell'intervista che oggi tutti i giornali riprendevano di Antonio Catricalà nel programma Porta a Porta ha spiegato nei quali settori si interverrà. Un aumento tra l'altro della pianta organica per farmacie e notai. Allora, la nostra Maria Pezzali e la nostra Anna Marino hanno fatto il giro dei rappresentanti delle categorie interessate. Allora, iniziano i notai con Gianfranco Laurini, presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, perché ampliare la pianta organica, detto in italiano, vuol dire aumentare il numero di notai, immaginando che in questo modo si riduca il prezzo delle, che, o meglio dire, quello che è la parcella del notaio. Stranamente, chi rappresenta i notai è contrario. Dice che infatti l'aumento della pianta organica è appena stato fatto. Ascoltiamo appunto intervistato la nostra Maria Luisa Pezzali. Noi abbiamo avuto un mese fa un aumento di 467 posti della nostra pianta organica che noi abbiamo sponsorizzato e sostenuto. Allo Stato abbiamo quindi 1000 posti liberi circa, oggetto in parte di concorsi in atto e in parte dovranno essere messi a concorso. Ulteriori aumenti. Il momento è di grave crisi, noi abbiamo registrato in questi 4 anni ben il 38% di calo nel volume di lavoro, quindi bisogna andare molto con i piedi di piombo in aumenti che tra l'altro metterebbero in crisi, oltre che il notariato, i nostri studi e i nostri circa 40.000 dipendenti che gravitano intorno a noi e quindi dobbiamo preoccuparci di loro. Bisogna creare più concorrenza per dare sconti ai cittadini sulle tariffe, dice Catricalà. Ecco, su questo fronte la vostra categoria? Ci riguarda, diciamo, relativamente, perché siamo pubblici ufficiali. Il costo del pubblico servizio è predeterminato dal Ministro di Giustizia, non è una tariffa che noi ci giochiamo come altre categorie. E poi dell'entità di una prestazione pagata ad un notaio c'è una notevolissima parte, talvolta oltre l'80%, che è di costo di imposte di registro e costi vari negli tutti gli adempimenti che si vanno a fare. Quindi l'onorario del notaio diventa di 1.000, 1.500, 2.000 euro o giù di lì, o a seconda dell'importanza del valore economico della prestazione e dell'atto. Però, Presidente, nel vostro settore di concorrenza non ce n'è molta. Ma non è che non c'è concorrenza. Nel nostro settore noi siamo, ripeto, dei pubblici ufficiali. La pubblica funzione si presta relativamente alla concorrenza. C'è una concorrenza tra notai. Sono tutti bravi, c'è però chi può essere più bravo riscuote comunque maggiormente la fiducia rispetto ad un altro. Quindi i cittadini possono scegliere nell'ambito del distretto, anche di distretti grandi come Milano, come Roma, in cui sono 600-700 i notai tra cui si può scegliere. Noi abbiamo questa strutturazione con competenza limitata ai distretti che corrispondono alla circoscrizione del tribunale, perché siamo legati all'organizzazione giudiziaria, come in tutta Europa, direi come in tutti gli 81 paesi del mondo in cui vi è il notariato di tipo latino. E in tutti questi paesi noi siamo collegati strettamente all'organizzazione giudiziaria, anche per quello che concerne la competenza territoriale limitata. Quindi, secondo lei, Presidente, un aumento della pianta organica non è necessario? A mio avviso non è necessaria. Ovviamente non siamo i soli a decidere. Innanzitutto il Ministro di Giustizia, che ha il polso della situazione, potrà ben giudicare se ed in che misura procedersi ad eventuali aumenti. Ciò che posso dire è che in questo momento di crisi e con l'aumento recente già fatto, sicuramente è una misura che va presa con molta, molta, molta prudenza. Oddio, massimo rispetto per i notai, però insomma la crisi del notaio che ha un numero chiuso e che poi come istituzione li inviteremo di nuovo, oggi facciamo un rapido giro delle categorie coinvolte, delle categorie citate ieri da Catricalà, ma dico insomma in molti paesi anglosassoni ma anche non anglosassoni il notaio diciamo è tutt'altra funzione, non ha i costi che ha il nostro, è appunto un ufficiale giudiziario, allora facciamolo fare un ufficiale giudiziario. Vedo che molti scrivono perché non abolire tutto il notariato, insomma non arriviamo a questo, vabbè. Alcuni ci rido perché un ascoltatore scrive ventose per gli specchi riferito ai notai. Ci segnalano sì la notizia della risposta di Monti, chiaramente del 4 gennaio, però siccome in Focus Economia non l'avevamo letta, mi piaceva, e anche questa economia mi piaceva citarla, no? Non si arrabbino alcuni ascoltatori perché gli ha toccato Calderoli. Allora, la borsa ha chiuso più 3,08%, dopo il meteo e la pubblicità sentiamo però anche quello che hanno risposto la nostra Anna Marino, i farmacisti e i tassisti. Allora, lo dico di nuovo, a mio avviso si tratta di casi molto diversi, la concorrenza inesistente tra notai, la concorrenza molto bloccata tra avvocati, è una cosa diversa rispetto a quella che è la situazione dei tassisti, che oggettivamente spesso hanno creato dei mutui sulla casa o dato a ipoteca beni per la licenza. È una cosa diversa ed è una cosa assolutamente con un impatto diverso, dopodiché nessuno vuole difendere a prescindere i tassisti, ma mettere tutto quanto assieme un po' di prudenza su questo. 349-238-6666 per i vostri sms. Meteo. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, io non so se i notai facciano il nero, sarebbe gravissimo, visto che appunto, come ricordava loro Presidente, o chiedono pagamenti in nero sono pubblici ufficiali. Però il punto è capire quanto serve questa figura professionale, perché non esiste in altri paesi e perché a questo punto non può essere messa in concorrenza. Per cui avrai un notaio che è prestigioso e chiede tanto perché, insomma, l'atto notarile suo è un atto chic, e il notaio che invece è un po' più scravoso e ti chiederà la metà, visto che sempre di atto notarile parliamo, però in concorrenza, non con il numero bloccato. Per cortesia. Allora, dai notai ai farmacisti, il ministro della salute oggi, Renato Balduzzi, ha detto meno rigidità nel sistema delle farmacie. Io ricordo i vantaggi fotografati dall'antitrust, dalla prima liberalizzazione delle farmacie, quella messa dal governo Prodi quando lo fece Bersani. Allora il presidente dell'antitrust era l'attuale sottosegretario Catricalà, insomma, calcolò che con le parafarmacie per i farmaci generici c'era stato un calo nei prezzi anche nelle farmacie, perché a quel punto questa è la concorrenza, medio quindi del 20% sui medicinali da banco. Chiunque di voi vada all'estero, in Francia ma non solo, si accorge che gli stessi farmaci, per non parlare dei pannolini del resto, costano dalla metà a un terzo in altri paesi. Oh, ma ci sarà un motivo se non costano di più. Comunque, sulle farmacie, presidente di Federfarma Anna Rosa Racca, rappresenta le 18.000 farmacie private, dice: le liberalizzazioni le abbiamo già fatte, ma siamo disponibili, in questo le va riconosciuto, a un nuovo assetto, ma non a snaturare il servizio. Quello che è stato fatto un mese fa è stata una cosa ragionevole, nel senso che una prima ipotesi prevedeva di portare totalmente fuori tutta la ricetta medica bianca dalla farmacia, non succede in nessun paese europeo. È stata poi fatta una scelta più ragionevole, lasciando appunto la ricetta all'interno della farmacia, portando fuori la farmacia solo quei farmaci che perderanno l'obbligo di ricetta, cioè che si potranno vendere anche senza ricetta. L'aumento del numero dei farmacisti e l'intervento sulla pianta organica, che cosa vorrà dire per voi? Se ci sarà una manovra che andrà a cambiare la pianta organica delle farmacie, questa manovra dovrà essere fatta molto bene, cioè si dovrà fare un riassetto, di cui noi non siamo sempre stati anche favorevoli, a un ammodernamento del nostro sistema, non ci siamo mai tirati indietro, però naturalmente deve essere un assetto ragionevole, cioè si possono aprire più farmacie, se comunque si svecchia il sistema, cioè se all'interno della farmacia si riportano tutti quei farmaci distribuiti dalle strutture pubbliche che hanno portato poi a grandi costi per lo Stato, se si fa una farmacia dei servizi, cioè un nuovo aspetto del sistema farmaceutico legato a una nuova remunerazione della farmacia, con anche una convenzione su quella che è la farmacia dei servizi. In questo momento di crisi, quali sono anche le proposte da parte della vostra categoria? Noi abbiamo sempre detto di essere disponibili a un ammodernamento del sistema, abbiamo sempre detto di essere disponibili ad andare verso un servizio migliore, a migliorare la qualità, a diminuire i prezzi quando il farmaco viene liberalizzato, il prezzo del farmaco. Tutte queste cose noi le facciamo. Non siamo favorevoli, ovviamente, a snaturare il nostro servizio per far guadagnare la grande distribuzione. Ecco, se passeranno questi provvedimenti, voi che cosa farete? Monti ha detto che vuol fare le cose con equilibrio, e quindi noi siamo disponibili a fare con equilibrio tutto quello che è un ammodernamento del sistema. Se non si andrà verso un ammodernamento del sistema, ma invece verso una penalizzazione, una distruzione della farmacia italiana, io da cittadina, oltre che da presidente di Federfarma, lotterò disperatamente affinché la farmacia rimanga sotto casa, e lotterò disperatamente per tutti quei miei colleghi che tutti i giorni sono a disposizione della gente, che hanno fatto dei debiti, che hanno investito nella propria farmacia e che rischiano, diciamo, invece di perdere tutto questo semplicemente per queste grandi voglie della grande distribuzione. La polemica è la solita, si va a vantaggio della grande distribuzione, però secondo i rappresentanti dei parafarmacisti, dei liberi farmacisti, che sono usciti questa mattina dalla riunione con il ministro alla salute Balduzzi, sarebbero almeno 7.000 le nuove farmacie che si dovrebbero aprire per garantire una distribuzione capillare dei farmaci. 7.000 sono tante e significano anche posti di lavoro. Non ci voglio credere, molti ascoltatori ci scrivono che la loro esperienza è che i notai incassano anche in nero. Non ci voglio credere, spero che vi stiate sbagliando, perché non sarebbe gravissimo che chi è un pubblico ufficiale e per questo gode di tutto un insieme di privilegi, del numero chiuso, poi incassi in nero come qualunque altro o alcuni lavoratori autonomi. Questo sarebbe gravissimo. Invece c'è chi dice, ma insomma, ma lei, piccolo schiavo degli imprenditori con il Cayenne e la terza media, cosa ne capisce di notai e farmacie? Oh, io ho la Golf, una laurea chiaramente meritata, però avrà ragione lei. Dopo il traffico, i tassisti e poi la borsa. Di nuovo in diretta, oggi siete scatenati, molti bergamaschi, in merito all'interrogazione di Calderoli, che vi ho letto, che del 4 gennaio, e della risposta, a mio avviso, di un'eleganza di Mario Monti, che dice: tu, mia moglie ha fatto la spesa, a mangiare c'erano i miei figli, abbiamo pagato noi la spesa e anche l'albergo dei figli e dei nipoti, però può essere che un po' più di elettricità e acqua e gas l'abbiamo spesa quella sera, perché eravamo in 10, l'ho letta testualmente. Molti ascoltatori che abitano in provincia di Bergamo mi stanno scrivendo che la casa del senatore Calderoli è presidiata 24 ore su 24 da la polizia o la guardia di finanza o dai carabinieri. Beh, insomma, anche quello, visto che non è più ministro, sarebbe interessante capire perché la casa del senatore Calderoli è presidiata dai carabinieri, della polizia, e forse per le esternazioni sull'ismo, non lo so. Poi avevano anche la guardia padana una volta, potevano fare un servizio privato. Invece andiamo sui tassisti, mentre molti mi scrivono ancora dei notai che fanno il nero, ripeto, non ci voglio credere, mettiamola così. I tassisti, la categoria ingaggerà una durissima battaglia, è Alfonso Faccioli di Union Taxi Will, che ha bloccato la sigla, che ieri ha bloccato per un'ora l'aeroporto di Linate, una cosa inaccettabile. Gli scioperi si fanno, sono un diritto, ma si annunciano, non in questo modo. Sentiamolo al microfono la nostra Maria Luisa Pezzali. Questo è un tentativo di distruggere il servizio taxi senza neanche provare a migliorare un servizio che ha ancora delle grandi possibilità di miglioramento, per dire. Noi abbiamo visto tutto meno che la volontà di migliorare il servizio. E infatti anche i tempi velocissimi non sono il presupposto per un dialogo. Dunque, a questo punto, se il governo non vuole il dialogo ma fa atti di guerra contro una categoria, allora noi a questo punto siamo in ballo e balliamo. L'intenzione del governo è abbassare i prezzi, creare più concorrenza. Noi abbiamo ampi margini, nel senso che noi come Will faremo di tutto. Ad esempio, a Milano siamo a 6 centrali radio, giusto? Noi è da anni che chiediamo e speriamo che si verifichi una sola centrale radio. Ciò vuol dire che già gli utenti sarebbero tutti a 2 minuti da uno dei 5.000 tassisti di Milano, per dire, no? Allora, la volontà di migliorare il servizio, abbiamo ampi margini. Di fronte a un bulldozer, a uno che viene a bruciarti la casa, noi non possiamo fare altro che andare lì e bloccare questo piromane. Allora, sui tassisti, personalmente per motivi di lavoro ne prendo tanti di taxi. È verissimo quello che dice il rappresentante della UIL, le situazioni sono molto diverse tra le grandi città dove il servizio obiettivamente c'è e le città medio-piccole dove delle volte si hanno problemi seri. Però il costo di una licenza va dai 60.000 euro di Bari ai 300.000 euro di Firenze. E i dati sono purtroppo vecchi, cioè sono della fine del 2008. Le nuove licenze sono state pochissime, tra il 91 e il 2006 quasi metà dei comuni non ha assegnato nuove licenze e un altro 30% non le assegna da almeno 10 anni. In 8 comuni addirittura l'ultima volta che furono fatte le licenze fu il 1960. Allora, ho appena difeso i tassisti, nel senso che a mio avviso la concorrenza soprattutto nelle grandi città c'è e non possono essere accomunati altre forme, ripeto, avvocati, notai, farmacie, anche gli ordini dei giornalisti, ma va bene tutto. Però attenzione su questo, anche i tassisti. La dichiarazione dei redditi del 2005, allora, dichiarazione media di del tassista, dati dell'Agenzia delle Entrate, 11.480 euro. Quella di un operaio metalmeccanico era allora di 20.000 euro. A Bologna il reddito medio dichiarato dalla categoria dei tassisti nel 2005 era di 6.184 euro. La percentuale di evasione tra i tassisti, date l'Agenzia delle Entrate, è di circa il 70%, anche perché se guadagni 11.000 euro l'anno è difficile comprarsi una licenza che ne vale 200.000 o 150.000. così adesso toccherà girare in bicicletta la borsa. Buona la giornata, più che buona in tutta Europa, più 2,66% a Parigi, più 2,42% a Francoforte, più 1,50% a Londra. La migliore oggi è Milano, più 3,1%, grazie soprattutto ai bancari, anzi direi quasi unicamente, no. Si è risvegliata anche Azimut e Toze e Ferragamo nel finale. Popolare Emilia Romagna più 7,90, Intesa San Paolo più 6,60, Popolare Milano più 6,30, Unicredit più 6%. E parleremo fra un attimo anche di come calcolare il prezzo, visto che ce l'ho continuato a chiedere, ieri l'abbiamo già spiegato, ma torneremo, il prezzo di Unicredit, visto che l'aumento di capitale è 1,90, ma il prezzo non scenderà a livello dell'aumento di capitale in questo caso, perché ci sono i diritti a 2,42 euro oggi il prezzo di Unicredit. Lasciamo stare però Unicredit, andiamo sugli altri titoli. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Allora, tutte bene le banche, nonostante Fitch, rimbalzo tecnico del gatto morto o cos'altro? Sì, allora, per quanto riguarda le banche si è trattato di un rivalzo dopo le ultime sedute di riflessione. Bisogna ricordare che comunque nelle ultime quattro sedute ha perso terreno tutta l'Europa e Milano è arrivata a perdere l'8%, quindi il FTSE MIB ha registrato negli ultimi quattro giorni una perdita del 7,9% circa. Sono rimbalzate le banche a livello europeo e ieri erano state penalizzate soprattutto dalla flessione di Unicredit, come dicevi tu, che negli ultimi quattro giorni aveva perso circa il 45%, mentre oggi è rimbalzata. La migliore a Milano è stata la Popolare dell'Emilia Romagna, che ha guadagnato il 7,90%, aspettando il nome del nuovo amministratore delegato, visto che Fabrizio Viola il 12 gennaio entrerà in Monte dei Paschi inizialmente come direttore generale. Ecco, citavi Monte dei Paschi, e Monte dei Paschi oggi fa eccezione, già ieri era riuscito a perdere più di Unicredit, oggi ha avuto una giornata che solo nel finale gli ha permesso di chiudere leggermente positivo, più 0,25%, 19 centesimi di euro, però è rimasto negativo per buona parte della seduta, che succede? Sì, infatti resta debole, quindi MPS anche oggi ha chiuso con un rialzo dello 0,25%, il mercato continua ad interrogarsi su un futuro aumento di in capitale, un'ipotesi che è stata comunque esclusa dalla banca, ma che il mercato ritiene possibile. Ricordiamo che entro il 20 gennaio le banche italiane dovranno comunicare alla Banca d'Italia i vari piani di rafforzamento del capitale come richiesto dall'EBA, che è l'autorità bancaria europea, che per MPS ha indicato la necessità di 3,2 miliardi di euro. Ricordiamo inoltre che MPS risente anche dell'andamento dei titoli di Stato, visto che è una delle banche più esposte. Restano quindi i dubbi riguardo alle modalità con cui la banca rafforzerà il proprio capitale, dubbi che saranno risolti, che arriveranno quindi a una soluzione il 20 gennaio prossimo. Allora, abbiamo appunto detto anche della Popolare di Milano, passiamo invece al settore del lusso, perché oggi sono arrivati dei risultati dalla Svizzera, da Swatch, e questi hanno avuto un buon impatto, sia su Luxottica, più 2,70%, ma in generale anche su tutto il settore del lusso, Tod's più 5,16%. Sì, e anche Ferragamo che ha guadagnato il 5,45%. Swatch a Zurigo ha chiuso in rialzo del 2,8% circa e la società ha comunicato di aver superato per la prima volta 7 miliardi di franchi svizzeri di giro d'affari annuale, nonostante l'effetto negativo dei cambi. A tassi di cambio costanti i ricavi sono così saliti del 21,7% circa, battendo le aspettative del mercato. Di questo quindi ha beneficiato tutto il settore del lusso a livello europeo. Ancora per quello che riguarda i titoli oggi, Fiat, ieri le dichiarazioni di Marchionne, trovato un po' così, vabbè, tutte queste foto, queste, non so, chiederò anche a te, ti piace il nuovo look di Marchionne? No, perché questo paese si interroga sul nuovo look di Marchionne, quando mi sembra più importante capire cosa vuol dire che un gruppo come Fiat non deve avere un legame sentimentale col paese d'origine, ma vabbè, ognuno la pensa come vuole, e magari mi interrogerei più anche sul nuovo look delle auto Fiat, però ti piace il look di Marchionne? Ma io ho notato ho avuto molti commenti positivi. Adesso sì, personalmente però, non so. Anche la categoria a cui apparteniamo ogni tanto, Cristoforo Colombo, no? Cioè, occuparsi della barba e della sciarpa di Marchionne e non dei dati Fiat, vabbè. Il Fiat più 5,52% e ancora Exor più 3,86%. Mi manca Fiat Camion e Trattori, abbiamo 30 secondi, poi riprendiamo dopo il GR. Livia. Sì, allora Fiat Industrial ha chiuso a più 4%. Allora, bisogna dire che oggi è andato bene tutto il comparto dell'auto a livello europeo, che ha guadagnato oltre il 3,5%. Per quanto riguarda la giornata di oggi, il mercato su Fiat si interroga sull'identità del terzo possibile partner per l'azienda dopo Chrysler, il proprio Marchionne. Ieri non ha escluso appunto la possibilità che Fiat trovi un terzo partner che oggi il Corriere della Sera identifica con Peugeot, PSA. Che però ha detto di essere sorpreso all'ipotesi avanzata, affermando di non sapere niente. Minuti, non vi dico i messaggi che stanno arrivando. Da un lato sul fronte di ascoltatori che hanno pagato il notaio in parte in nero, non ci voglio credere, perché essendo un ufficiale giudiziario, per questo tutelato anche col numero chiuso, a maggior ragione, no? È come corrompere un carabiniere, la Guardia di Finanza, e soprattutto se lo chiede lui, sarebbe gravissimo. Che ci fossero notai che si fanno pagare in nero, come segnalano decine di ascoltatori al 349-238-6666, proprio perché i notai da sempre sostengono che il ruolo loro è quello di ufficiale giudiziario. Se no, a questo punto uno va in comune, c'è un ufficiale comunale con la funzione, un impiegato comunale con la funzione di ufficiale giudiziario, lascia qualche centinaio di euro e non migliaia di euro come costa un notaio, e per il resto, oppure solo fa fare da commercialista come Gran Bretagna. No, non mi sembra che la Gran Bretagna sia un paese incivile su questo. Ancora, poi molti tassisti che contestano le medie che abbiamo letto sulle dichiarazioni dei redditi. Mi dispiace, sono dell'Agenzia delle Entrate, il dato è riferito, lo ammetto, al 2005. Altri che dicono converrebbe, sono tassisti anche loro, liberalizzare il costo delle licenze più che il numero delle licenze, il numero dei taxi, che vuol dire il costo della tariffa più che il numero delle licenze. Non lo so, chiaramente se lo scrivete voi, mi sembra che si creerebbe una giungla. Uno va e dice: no, io ti offro 20 per quella corsa, no, io te ne offro 18. È un po' così, mi sembra un po' azzardata come proposta, anche se arriva dagli stessi tassisti. Comunque, noi torniamo sulla borsa e torniamo con Livia Zancanera, a cui abbiamo scoperto che piace il look di Sergio Marchionne, con un atto di piaggeria non indifferente. Livia, ci sei? Sì, sono qua. Sto scherzando, Allora, ancora con i titoli di Assori meno 0,88, Campari meno 0,85 percento. Oltre al settore del lusso, mi mancavano ancora alcuni titoli minori. La ex DMT, che si chiama AE Towers, giusto? Ha fatto un più 10%, 10,60%. Sì, la società ha guadagnato il 10,67%, si tratta della vecchia DMT, che ha cambiato nome in AE Towers il 5 gennaio scorso. Praticamente vi è stata una fusione della società AE Towers, che è del gruppo Mediaset, in DMT, un'operazione che ha portato alla creazione del nuovo polo delle torri di trasmissione TV, di cui Mediaset ha il 60%, e oggi il titolo ha festeggiato in borsa e ha guadagnato il 10,67%. Ancora, per quello che riguarda i migliori e peggiori del clima, più 10,36, KR Energy più 13,90, ex Skytech, e poi vabbè, le banche che ricordavamo tutte bene, anche BNP Paribas che guadagna oggi il 6,04%, EG Capital meno 16%, la Juventus meno 13%, che succede? Sì, allora la Juventus ha perso ancora... Beh, c'è l'aumento di capitale, no? Dal 19 dicembre. Sì, c'è l'aumento di capitale in corso, in particolare i cali sono iniziati nel terzo giorno dell'aumento di capitale, quindi il 21 dicembre, da quella data le azioni hanno perso il 43,6%, ricordiamo che i diritti sono esercitabili fino al 18 gennaio, il prezzo dell'aumento di capitale, l'aumento di capitale è da massimi 120 milioni, e ricordiamo anche che il prezzo è stato fissato a 0,148 euro, che pare uno sconto del 36,1% rispetto al vecchio prezzo delle azioni Juventus. Allora, grazie a Livia Zancanera di Occorre Sole 24 Ore. Noi restiamo per il tema di borsa e ci occupiamo di nuovo, visto il numero di richieste legittime che ci sono arrivate, ci mancherebbe, su come calcolare il rapporto tra l'aumento di capitale, il prezzo fissato da Unicredit, 1,943 euro, e l'andamento del titolo in borsa. Allora, di solito quando c'è un aumento di capitale spesso avviene che il titolo si muova verso quel livello. Molti ci hanno chiesto: ma perché anche quando UniCredit è sceso tantissimo non scende, non è previsto che scenda, o meglio non dovrebbe scendere al livello di 1,943 euro? Perché ci sono, come spiegava a mio avviso molto, molto precisa ieri Antonella Olivieri, ci sono i diritti. Ricordo, 7 miliardi e mezzo di aumento di capitale a 1,943 euro per l'azione nel rapporto di opzioni di due azioni ordinarie di nuova emissione, ogni azione ordinaria o di risparmio posseduta, con uno sconto rispetto al valore medio dopo lo stacco della cedola del 43%, prezzo ufficiale di borsa ex diritto sulla base sullo stacco della cedola dello scorso 3 gennaio. Praticamente ogni azionista sia dell'ordinaria che del risparmio di UniCredit se ne beccherà due al prezzo di 1,943 euro. Ecco da lì lo sconto, cioè è il mercato che si muove. Però Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera anche a te. Buonasera a tutti. Perché a rigore, poi lasciamo stare quello che fa il mercato, il prezzo di UniCredit non dovrebbe mai scendere a 1,943 euro, nonostante questo sarà il valore offerto come azione delle nuove azioni UniCredit? Beh, perché come dicevi tu, questo è il valore che viene offerto a chi è già in possesso del diritto, quindi agli attuali azionisti, mentre se un nuovo socio, in questo momento un investitore interessato a diventare azionista di UniCredit, in questo momento ha due possibilità: o compra il titolo in borsa oppure acquista sempre in borsa il diritto, e attraverso il diritto sottoscrive, come hai spiegato prima, due azioni UniCredit a 1,943 euro. Quindi il prezzo reale attraverso il diritto non è solo 1,943, ma bisogna appunto calcolare anche il valore del diritto. Oggi il diritto in borsa è balzato dell'80% e ha chiuso a 0,85 euro, quindi sottoscrivere una nuova azione UniCredit acquistando il diritto costa in realtà 2,368 euro. Questo è un valore ancora conveniente rispetto al valore di borsa. Oggi UniCredit ha chiuso a 2,424 euro, quindi rimane conveniente comprare il diritto e sottoscrivere le nuove azioni. L'attesa è che man mano si va avanti con l'aumento di capitale e si riduca la forbice tra questi due valori, e di fatto quindi il diritto e le azioni si allineano su un valore che viene ritenuto corretto dal mercato. Ricordiamo comunque che ad esempio anche nel caso dell'ultimo aumento di capitale di una banca chiuso in borsa, che è quello della Banca Popolare di Milano, che era un aumento che è stato vissuto in fasi di grossa turbolenza con drastici cali del titolo, anche lì e nonostante un quasi azzeramento del valore del diritto, il prezzo è rimasto al di sopra di quello di sottoscrizione delle nuove azioni, proprio perché deve anche incorporare il valore, che pur minimo comunque c'è, del diritto. Quindi per dirla tutta, uno al prezzo, per far capire a chi ascolta, uno guarda il prezzo di un credito in borsa e deve elevare il valore del diritto. E cioè di fatto sì, di fatto. Nel senso, mi rendo conto che il linguaggio sia molto così. Grossier, molto grossolano, però per far capire a tutti, perché uno dice: ma non scenderà un euro 943? Più che altro è che il prezzo di borsa non deve essere confrontato con 1,943, esatto, ma oggi con 2,368, che è il prezzo di una nuova azione, contando il fatto che devi anche acquistare il diritto. Devi anche acquistare il diritto, per cui con il raffronto a 2,368. Il titolo che oggi in recupero UniCredit ha guadagnato infatti il 6% è a 2,42 euro, quindi va leggermente più del prezzo finale, quello composto da prezzo nominale dell'aumento di capitale più il valore del diritto. Esattamente, è ancora un po' sopra. Sì. Domanda, quanti secondo te hanno tra i grandi investitori, tra chi lo fa di professione, venduto a mani basse UniCredit per poi ricomprarlo adesso, guadagnando tanto sia sul valore nominale del titolo sia sui diritti? Probabilmente parecchi. Abbiamo visto che proprio poco prima dell'avvio dell'aumento di capitale, ad esempio BlackRock aveva drasticamente ridotto la propria quota, e sicuramente è un modo anche per abbassare i prezzi di carico dei grandi investitori, vendere prima e poi rientrare attraverso l'aumento di capitale, contando su poi un aumento del titolo dopo la chiusura dell'operazione. Sicuramente è un gioco che hanno fatto in parecchi, e anche adesso in questi giorni, proprio attraverso l'arbitraggio tra il prezzo delle azioni in borsa e il prezzo dei diritti e il valore delle azioni implicato dai diritti, chi può e soprattutto chi può muovere grandi volumi è sicuramente l'occasione di fare numerose operazioni. E questo infatti parlo di finanza complessivamente internazionale e non. Sul tema invece della scalata, del rischio scalata, oggi il direttore generale di Unicredit, Roberto Nicastro, ha detto che il rischio di scalata di Unicredit è abbastanza remoto, quella abbastanza che lascia così perplessi in un incontro a Palermo. Tra l'altro ha detto il titolo è volatile ma i fondamentali sono ok. Ci occuperemo di banche, lo dico a chi scrive, di banche e imprese, perché mentre Mario Draghi ha offerto centinaia di miliardi alle banche europee a tassi praticamente nulli all'1% su 3 anni, a noi continuano ad arrivare segnalazioni a fine anno, inizio anno, di imprenditori che hanno problemi con le banche o perché gli chiedono di rientrare o perché non gli danno linee di credito. Allora, è ovvio che l'operazione fatta da Mario Draghi serviva in primo luogo a non bloccare il sistema bancario, cioè fare in modo che le banche potessero trovare liquidità, visto che tra di loro non se le prestano, a bassi tassi di interesse. Però l'obiettivo, detto dallo stesso Mario Draghi, era anche liberare un po' di risorse per le imprese, soprattutto le piccole e le artigiane, e i cittadini. Se no, voglio dire, troppo comodo andare a prendere dalla Banca Centrale Europea i soldi all'1%, poi magari comprarsi le obbligazioni italiane e guadagnarci. Cioè, così siamo capaci tutto, e allora Mario Draghi faccia avere anche noi la possibilità di andare a Francoforte a prenderci i soldi all'1%. Capisco l'importanza del sistema bancario, però anche le banche adesso hanno tutti gli elementi, a meno che non ci nascondano qualcosa, per tornare a allargare con una sana e prudente gestione il credito alle imprese. Di questo ci occuperemo già domani. Grazie intanto a Paolo Pronetto, Radio Colli sulle 24 ore, il traffico e poi San Raffaele che va a Rotelli, no alla cordata, quindi Malacalza. IOR 349-238-6666 per i vostri sms. Ultima parte di Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, non ce la facciamo oggi, ma vi prometto che domani, assieme al rapporto banche imprese e al cosiddetto credit crunch che molti di voi ci segnalano, ci occuperemo anche della principale banca di questo paese, nel senso che è quella che ha maggiore liquidità e si chiama Mafia S.p.A. Lo dico con massimo rispetto chiaramente per le banche vere. Il rapporto di oggi della Confesercenti era netto su questo, praticamente stiamo parlando di 65 miliardi di liquidità della mafia, con un fatturato che praticamente vola a 100 miliardi, a 140 miliardi, un utile superiore ai 100 miliardi. Pensate, insomma, dai bar, ristoranti, ai negozi, insomma, sono sempre più le imprese colpite da questo, ed è probabile, ahimè, che con la crisi, e qui ci ricolleghiamo al tema delle banche e delle imprese, perché se i tassi praticati o sono da strozzinaggio oppure si chiede il rientro, è chiaro che in alcuni casi si spinge il commerciante, l'artigiano, l'imprenditore verso chi i soldi te li presta ma poi ti impicca, ti cravatta. Però lo facciamo domani, teniamo assieme i due temi. Adesso parliamo del San Raffaele. La vicenda si è conclusa con il San Raffaele che va al re delle cliniche lombarde, Rotelli. €405 milioni, Rotelli, nato a Pavia nel 1945, il re delle cliniche appunto lombarde, anche azionista del Rizzoli Corriere della Sera dal dicembre 2010 al 3,5%, ha il gruppo ospedale San Donato e dal 1980 è alla guida appunto del Policlinico San Donato e ha fondato il gruppo ospedale San Donato che ha 18 ospedali di cui 17 in Lombardia, uno in Emilia Romagna. Ha seguito la conferenza stampa e l'intera operazione della nostra Raffaella Calandra. Raffaella, buonasera. Sì, buonasera. Si è appena conclusa o è ancora in corso? La conferenza stampa del vicepresidente Profitti si è appena conclusa, ma è stata la conclusione di una giornata lunghissima, cominciata questa mattina nello studio del notaio Enrico Chiodi Daelli, che a mezzogiorno, quando è scaduto il termine per la presentazione di un'eventuale controfferta da parte del tandem IOR Malacalza, ha dovuto invece verbalizzare che questa controfferta non c'era stata e che quindi per il San Raffaele è iniziata di fatto l'era Rotelli. Giuseppe Rotelli, come ricordavi, l'imprenditore della sanità, già titolare del gruppo ospedaliero San Donato, dunque è il nuovo proprietario dell'istituto fondato da Don Luigi di Berzé, che si è aggiudicato con la sua offerta da 405 milioni, migliorativa di 100 milioni in più della sua stessa prima offerta di 305 messa sul piatto a fine dicembre. Non c'è stata la controfferta della cordata della Santa Sede, Ior Malacalza, che se avesse pareggiato rispetto alla cifra dei 405 milioni avrebbe avuto un diritto di prelazione. Dunque a questo punto si spalancano le strade verso la creazione di questa new co, di questo nuovo San Raffaele, che, come è stato anche detto poco fa nella conferenza stampa, entro fine aprile e inizi di maggio dovrebbe essere operativo. Ma il punto di partenza di questa lunga giornata è stato appunto nello studio del notaio Chiodi Daelle, dove noi c'eravamo. Sentiamo. Tutta la puntata sui notai, no, è una battuta perché ti sei persa la mezz'ora precedente, sentiamo. Sarebbe diventata definitiva, dico sarebbe perché è la fondazione che prenderà la decisione definitiva, come ha fatto ieri, per l'accettazione delle proposte. Quindi il fatto che non si sia presentato nessuno della, diciamo, cordata Malacalza Ior vuol dire che resta allo Stato la loro precedente offerta? Cioè, non si sono allineati con le offerte in aumento, quindi questa asta sarebbe assegnata al gruppo Velca. Quindi voi in questo momento state? Semplicemente constatando la mancanza, la mancata presentazione di offerte da parte del gruppo iniziale, quello che ha fatto le offerte iniziali. Solo una constatazione, semplicemente questo. E ricordate quali sono le offerte a questo momento appunto già esistenti? E quindi nel verbale si dice che l'ultima offerta è stata fatta il giorno 5 e voi sapete benissimo quello che è stato. Automaticamente San Raffaele di Giuseppe Rotelli? Dovrebbe, è sempre la fondazione che deciderà. E il tribunale poi, quando si farà la missione, darà l'omologa al concordato preventivo. Però io direi che voi sapete che adesso non si è presentato nessuno. Aspettate aver comunicato definitivo oggi dalla fondazione e dai commissari giudiziari. Ah, non si è presentato nessuno, ma i legali della fondazione sono qui? Sono i legali, ma non hanno i poteri per fare offerte. Beh, ma se i tempi sono scaduti... No, poi loro sono legali della fondazione, ma non di Malacalza di Ior. Chiaro, sono due soggetti completamente diversi. La fondazione è quella che riceverà, che farà l'accesso bonorum e che riceverà quanto proposto, quanto offerto dalla Velca. Io vado al condizionale perché è molto articolato questo autoregolamento e quindi diciamo che si constata che non c'è stata presentazione di offerta da parte di questi due gruppi. E poi invece abbiamo capito appunto che, mancando la presentazione degli altri due gruppi, un po' zigogolato il notaio, vabbè, lo capiamo, insomma è andato a Rotelli. Io ricordo che il San Raffaele, creato dallo scomparso Don Verzè, riceve ogni anno dalla Regione Lombardia 450 milioni di euro. 450 milioni di euro, ma è riuscito ad accumulare 1,5 miliardi di euro di debiti e 17.000 creditori solo tra 2000, come? Beh, l'avete letto sui giornali, ma insomma, operazioni molto molto spericolate. Tra 2005 e 2010 Don Verzè ha effettuato investimenti per 600 milioni, compreso l'acquisto di piantagioni in Brasile, hotel a 4 stelle in Sardegna, l'acquisto di un aereo privato. Raffaella, dopo la conferenza stampa, insomma, comunque abbiamo sentito i dubbi del notaio di questa mattina, ma l'operazione è conclusa a tutti gli effetti. Allora, l'operazione è conclusa, però adesso ci sarà il prossimo 23 il voto da parte dell'assemblea dei creditori, che dovranno approvare, diciamo, e ratificare, diciamo, il piano di risanamento che è stato a questo punto definito. Creditori che dal loro punto di vista hanno visto crescere dal 50 al circa 70-80% i loro rimborsi con questa offerta ulteriormente migliorativa da parte della Velca di Rotelli. Quindi il passaggio fondamentale è quello dell'assemblea dei creditori. Dopodiché lo stesso CDA della fondazione, a cominciare dal vicepresidente Profitti, incontrerà il presidente del tribunale di Milano, Filippo Lamanna, come ha anticipato lui stesso, sì. E sul piatto c'è anche l'ipotesi di dimissioni da parte dello stesso CDA. Questo rientra, certo, in quel perimetro, diciamo, stabilito con la procura nel momento in cui è stato aperto questo concordato preventivo che ha evitato il fallimento della San Raffaele. Il fallimento vero e proprio. Grazie a Raffaella Calandra, che ci ha raccontato la conferenza stampa che si è appena conclusa. Allora, sono arrivate centinaia di messaggi che continuano a dirci che i notai chiedono il nero, il doppio prezzo, metà in nero. Io veramente Ma non ci posso credere, visto che appunto si piccano di essere ufficiali giudiziari e i notai oggi me li sono fatti nemici. I tassisti non li capisco invece oggi, perché abbiamo spiegato in tutti i modi che i tassisti, la concorrenza tra i tassisti a mio avviso non va confusa con quella tra gli avvocati, i notai, le farmacie. Sono soprattutto nelle grandi città già molto in concorrenza e le file dei taxi fermi li vediamo tutti, quindi io le tratterei in maniera diversa. Ciò nonostante, avendo ricordato la dichiarazione dei redditi, c'è chi mi scrive: Barisoni, sei un vile meschino. Dai dati fasulli del 2005, abbiamo gli studi di settore, vediamo se hai il coraggio di leggere questo messaggio. Angelo, tassista milanese. Angelo, buona serata anche a lei. Io ho solo letto i dati dell'Agenzia delle Entrate, in cui i tassisti nel 2005 dichiaravano un reddito medio di 11.480 euro, quando un metalmeccanico ne dichiarava 20.000. Buona serata a lei, a tutti i tassisti e ai metalmeccanici. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.